Allora, volevo raccontare questa esperienza che significa raccontare 10 anni di ansie e speranze che hanno accompagnato il mio studio legale con tutti coloro che lo compongono insieme all'esperienza di Alberto. Alberto l'abbiamo conosciuto quando fu arrestato nel 2004 e ha passato alcuni mesi in carcere, siamo riusciti faticosamente a farlo uscire, è stato ancora agli arresti domiciliari e poi per parecchio tempo anche con le firme ai commissariati. Quindi lui già aveva avuto un'esperienza di carcere, è una persona molto disponibile, ha sempre aiutato gli altri detenuti che avevano difficoltà o a scrivere o a poter difendere i propri diritti e quindi è una persona, diciamo, che anche per il lavoro che fa si è sempre adattato ad essere disponibile con gli altri. Questa figura male si confà per quello che l'hanno considerato, in quanto questa accusa di essere una persona violenta o pericolosa che l'ha accompagnato in questi anni, evidentemente lo ha anche un po' reso più timido forse di quello che sarebbe il suo carattere, che è molto aperto ed è una persona molto socievole. Però l'ha condotto a decidere che lui può essere utile anche in carcere e passando questa esperienza forse porterà ancora qualche maturità alla sua persona e bene anche agli altri, per cui ha deciso di rientrare in carcere e poi di usufruire di tutte le cose di cui ha diritto in base alla legge Gozzini. Per questo motivo ha deciso che il nostro studio lo accompagnasse in questa decisione e ieri è andato spontaneamente, come ci hanno indicato prima la Digos, dove non è stato né preso a casa né ammanettato né c'è stato di quelle sceneggiate che di solito si fanno per arrestare persone cosiddette pericolose. Per cui è andato spontaneamente, dignitosamente, è arrivato alla questura, ha firmato le sue carte, poi ha parlato con noi per tutto il tragitto perché è stato nella macchina dei suoi avvocati, non è andato con la macchina della polizia, non ha avuto appunto l'esperienza dell'ammanettamento, non ha avuto l'esperienza dei trattamenti appunto che di solito sono abbastanza rudi e ha espresso le sue opinioni, ha salutato tutti i compagni, ha detto che a presto e quindi ci rivediamo presto, perché i suoi anni saranno lunghi ma non saranno lontani dai compagni. È arrivato a Rebibbia dopo aver avuto l'esperienza di dare le sue impronte, che peraltro l'aveva già date, quindi è stato portato a Via Patini prima del carcere, dove le impronte sono state riprese. Adesso fortunatamente non si prendono più con l'inchiostro che lasciava quella cosa indelebile sulle dita che dava proprio il marchio della vergogna. Oggi c'è una macchinetta nella quale si infila la mano, vengono fotocopiate così e quindi è una cosa meno traumatica, diciamo. E niente, si è portato in carcere, ha visto i compagni fuori del carcere Bibbia, anzi è lui che si è fatto vedere da dentro la macchina della polizia e così ha fatto anche il suo ultimo saluto a tutti i compagni che stavano fuori del carcere. Questa cosa è stata molto dolorosa, ma devo dire anche molto dignitosa da parte sua, perché non in nessun momento si è abbattuto, è andato fiero che comunque è vero, è una vittima di questo sistema perché hanno voluto creare con lui devo dire, e pochi altri, il capro espiatorio di tutta la situazione, di tutto quello che è avvenuto a Genova, e lui che peraltro anche sulla linea di quello che è il diritto non aveva commesso tutto quello che gli hanno accollato. La maggior parte delle sue accuse sono per concorso morale, quindi la materialità della sua condotta non ha contribuito a quel reato anche così elevato che gli hanno contestato. La sua condotta non è stata quella, comunque si sono accaniti su di lui perché evidentemente hanno capito che non è una persona che ha avuto un'esperienza e poi ha fatto tutt'altro, è una persona che che continua ad avere le proprie idee, che continua a professarle, che continua a fare quello che ritiene giusto come persona che ha il diritto di fare la sua attività politica. Forse altri hanno abbandonato, come dicono i giornali, Alberto non ha abbandonato, la sua condotta di vita dimostra le sue idee, dimostra come lui ritiene che debba essere il mondo, per cui si sono accaniti su di lui perché ha dei compagni, perché ha intorno un insieme di persone che continuano a lottare, i cosiddetti antagonisti, chiamiamoli come vogliamo, noi non mettiamo etichette perché non abbiamo necessità di creare quel diritto appunto che dà etichetta per creare il nemico, come sono diventati compagni come Alberto. Alberto è stato catalogato un nemico, lui invece è un amico, per cui questa cosa l'hanno voluta punire, hanno punito Alberto perché ha gli amici. Hanno punito Alberto perché, come altri, non vuole abbassare la testa e lui a testa alta è entrato in carcere e a testa alta uscirà. Più che un amico, è un compagno che racchiude più sensibilmente questa cosa. Scusate, per me l'amico è il compagno che ti sta vicino, che lotta, che non abbassa la testa. Ecco, ecco, questo amico in lui, senso, lui amico io ci ho parlato prima, ha detto io vado dentro perché sono un prigioniero politico di questo sistema e penso che c'ha pienamente ragione. Una cosa tanto per sperare, non lo so, così tanto per capire, perché noi non ne capiamo. Per quanto tempo, no? Prima di poter usufruire dei benefici. Di cose, quanto ne... dipende, perché i benefici sono di vario genere, c'è per esempio l'articolo 21 della legge Gozzini che prevede, permette in date condizioni di poter uscire la mattina e tornare la sera lavorando all'esterno, e può essere concesso anche a chi sta in attesa di giudizio, è un articolo che non mette limiti e che quindi che è quello che però nasce da un'osservazione all'interno del carcere che dura qualche mese, che forse può durare un anno, però è un articolo che ti permette di uscire la mattina e tornare la sera. C'è un altro articolo, devo dire, parliamo anche della compagna siciliana che ha usufruito di un altro articolo, che è l'articolo 47 della legge Gozzini, che in una delle sue lettere dice che una mamma che ha la bambino inferiore ai 10 anni può scontare la pena alla detenzione domiciliare perché deve accudire questo figlio se ha meno di 10 anni. E quindi è un'altra possibilità che si dà senza neanche entrare in carcere. E infatti per lei ho fatto l'istanza alla Procura Generale di Genova, che doveva eseguire i mandati, e ho ottenuto ieri mattina che lei non entrasse in carcere perché, avendo una figlia di 5 anni, questa è la compagna condannata insieme al compagno, lui ha avuto 7 anni e lei 6 e mezzo, però lei aveva avuto già le attenuanti e lui invece gli hanno concesso di rifare il processo sull'attenuante della condizione del tumulto, essere condizionato dal tumulto della manifestazione, è uno di quelli che ha avuto questa condizione. Lei aveva già avuto le attenuanti prevalenti sulle aggravanti, infatti aveva avuto 6 mesi di meno, per cui doveva entrare in carcere, e invece ieri mattina abbiamo ottenuto che si sospendesse l'ordine di carcerazione finché il Tribunale di Sorveglianza, adesso di Messina perché lei abita là, possa decidere che lei debba stare agli arresti domiciliari, però intanto è libera. Per lei abbiamo potuto usufruire subito di una delle condizioni della legge Gozzini, ordinamento penitenziario. Per Alberto abbiamo questa possibilità dell'articolo 21, poi ci sarà ogni 6 mesi potrà usufruire della diminuzione di 45 giorni della pena, il che significa che in un anno hai diritto a 3 mesi di sconto sulla pena. Certo, tutto dipende dalla condotta o quella che loro ritengono condotta che dà diritto a queste cose. E poi in carcere c'è la possibilità, volendo, se hai una professione un po' diversa da quelle generiche, di lavorare. C'è la possibilità, nella legge Gozzini ce ne sono diverse, sotto i tre anni di sconto di pena. Puoi chiedere l'affidamento sociale se hai una richiesta di lavoro, e l'affidamento sociale significa che sei libero gli ultimi 3 anni della pena, sarai libero e puoi ottenere di scontare la pena essendo libero, basta che lavori. Sono cose che si sono ottenute con anni di lotte all'interno delle carceri. Nel 75 ci furono centinaia di condanne per le rivolte in carcere per ottenere questa legge, che non è delle migliori perché punta sulla buona condotta, però ha fatto in modo che il 40% dei detenuti in questi anni, in certe condizioni, ripeto, hanno potuto usufruire di queste misure e scontare le pene a casa o in luoghi di protetti o in luoghi di lavoro, ecco, per cui credo che anche ne abbia diritto anche Alberto e speriamo che gli vengano applicate. Io tenterò in tutti i modi, perché anche se sono convinta che è un prigioniero politico, sono convinta che è anche un cittadino che ha i suoi diritti, ecco, non è che perché uno è prigioniero poi è destinato alla dannazione, ecco, se no non farei l'avvocato, insomma, un po' d'ottimismo ci vuole. Sacrosanto, Simone, direi che è sacrosanto questo discorso d'ottimismo, insomma, e le parole, secondo me, molto toccanti che tu hai usato nel descrivere questa esperienza di Alberto, insomma, nel consegnarsi ieri, ci devono far speranza, insomma, no? Ma non tanto la speranza perché ci rimettiamo alla clemenza delle istituzioni, non è tanto questo. No. È la speranza proprio, come hai detto tu, di un amico, di un compagno, di una persona che ha una grande dignità e che può essere di esempio veramente per tutti e tutte, che quindi, insomma, la speranza nostra è proprio in questi fondamenti qua, insomma, che siamo diversi anche in queste circostanze, insomma. Certo, lo diceva un altro compagno che ha fatto tanti anni di galera, che quando gli si è prospettata la possibilità anche di fuggire, ha detto: io voglio uscire con la mia valigia a testa alta, e rifiutò all'epoca anche di uscire durante quella famosa evasione di 14 persone al carcere Ginaceli. Quando io sostengo che il diritto all'evasione è la prima cosa che deve, alla quale deve pensare un detenuto, quindi ho difeso anche compagni che hanno tentato le evasioni e sono, purtroppo non sono riusciti, però ci sono situazioni e situazioni, e quindi al di là del diritto all'evasione che ho sempre sostenuto anche nelle cause, ritengo che anche altre cose vanno coltivate, perché ti garantiscono anche, se non è di moda, di poter coltivare la propria famiglia. Non si può abbandonare la famiglia dicendo addio e poi non si sa quando si rivede. Tutti hanno una famiglia alla quale si riferiscono, tutti hanno i compagni con i quali vogliono vivere liberi, e vogliono vivere liberi senza pericoli autoprodotti, ecco. Sì, Simonetta, comunque vogliamo pure, come si dice, cogliere l'occasione per ringraziare te e tutti gli avvocati e le avvocate che hanno seguito in tutti questi anni queste compagne e compagni. Noi abbiamo anche ascoltato venerdì, un giornale ha detto che gli avvocati avevano parlato con passione e intelligenza, per noi ha scontato, però un grazie ancora di cuore da parte di tutti e tutte. Grazie anche per tutti. Come? Vabbè, d'accordo. Grazie, ciao Simone. Ho ringraziato dei ringraziamenti e mi fate emozionare, quindi meglio che tagliamo. Va bene, ciao Simone, ciao. Ciao.